GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Monossido killer, il sessantenne morto a Trieste, era il proprietario dell'appartamento, il gas letale proveniva dall'alloggio sottostante, 11 gli intossicati, grave la moglie della vittima, un'inchiesta aperta dalla procura. Saper riconoscere i sintomi da avvelenamento da monossido e agire prontamente, parla un medico dell'emergenza. Feste di fine anno e zone rosse, le disposizioni del Ministero dell'Interno, ecco cosa cambia nelle piazze di San Silvestro. Capodanno nelle mete insospettabili, come cambia il turismo e chi ne beneficia quando si esce dal binomio montagna-città d'arte. Barcis parte l'operazione di sghiaiamento del Rio Arcola, ha consegnato il cantiere che dovrebbe scongiurare le esondazioni sulla strada regionale 251. San Silvestro a teatro per un augurio in musica e tra i generi va fortissimo il gospel. Le 12:32 minuti, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Monossido di carbonio, una nuova vittima in regione dopo quella di 5 giorni fa a Forni di Sopra. Questa volta l'incidente è avvenuto in centro a Trieste, in uno stabile in via Crispi, a pochi passi dalla centralissima via Carducci. Ha perso la vita un sessantenne austriaco proprietario con la moglie di un appartamento al quarto piano, al civico 5. Dopo il lungo intervento di ieri sera, durante il quale sono state soccorse una decina di persone, questa mattina i vigili del fuoco sono tornati sul posto per formulare un'ipotesi più precisa sulle cause della dispersione del gas letale. Fuga che è partita, secondo i primi accertamenti, dal terzo piano, da un appartamento che era vuoto perché i proprietari si trovano in vacanza. Sentiremo fra pochissimo la ricostruzione del servizio e adesso invece l'intervista con un tecnico, un responsabile delle emergenze nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina, che ci spiega come si riconosce la presenza del monossido di carbonio e cosa bisogna fare quando ci si accorge che questo gas si sta diffondendo. La nostra intervista con Alberto Peratoner, sentiamo. Quali sono i principali segnali che si possono avvertire subito essendo avvelenati da monossido? Segnali sono sintomi aspecifici, però abbastanza semplici e comuni, come nausea, vomito, mal di testa, cefalea e tendenza ad addormentarsi, soppore, stordimento mentale. Come si diffonde questo gas? Un gas che si diffonde in ambienti chiusi in tutto l'ambiente, è tendenzialmente più leggero ma va a prendere un po' tutto l'ambiente aereo. Perché questo avvelenamento sopraggiunge così velocemente? Allora, in realtà non è velocissimo l'avvelenamento acuto, nel senso che è un problema di come si va questo gas a legare all'emoglobina. Immaginate che il legame di questo gas con l'emoglobina è 200 volte più stabile dell'ossigeno, quindi a parità di ossigeno e monossido, la nostra emoglobina andrà a legare prevalentemente il monossido. Quindi l'insorgenza è in un ambiente chiuso, senza reazione, anche di qualche ora progressiva, quindi l'avvelenamento può essere rapido a seconda delle concentrazioni e a seconda di quanto è areato. Ci sono delle azioni salvavita ancora prima di chiamare il NUE 112? Allora, l'azione salvavita è accorgersi di quello che sta succedendo, quindi interpretare un po' i sintomi che sono appunto aspecifici, però questa triade, no? Sintomi neurologici, cefalea, ottundimento mentale e nausea e vomito deve porre sempre allarme. L'altra cosa essenziale da fare è areare, aprire le finestre quanto prima e poter avere accesso a ossigenazione, aria pura. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora sentiamo il servizio sulle indagini, sull'episodio di ieri sera in via Crispi. Questa mattina siamo tornati sul posto insieme con i vigili del fuoco. Un morto e 10 intossicati, e questo è il bilancio della fuga di monossido di carbonio dello stabile di via Crispi 5, pieno centro di Trieste. La vittima è un sessantenne austriaco, ricoverata in gravissime condizioni la moglie. L'uomo è stato ritrovato nel letto dell'appartamento del quarto piano, la moglie invece stesa a terra, ancora cosciente all'arrivo dei soccorsi intorno alle 22. I primi intossicati sono tornati a casa già in mattinata. I cani abbaiavano, però non riuscivo a capire cosa potesse essere. Hanno fatto irruzione i vigili del fuoco dentro casa, dicendo di aprire tutto, di areggiare, e dopodiché siamo andati giù e siamo stati messi sulle ambulanze. A dare l'allarme sarebbero stati altri due amici austriaci della coppia, preoccupati nel non ricevere risposte alle chiamate. La coppia era proprietaria dell'appartamento nel quale i vigili del fuoco non hanno trovato una caldaia o un impianto a gas, ma solo un sistema di induzione. L'ipotesi principale è un malfunzionamento della caldaia nuova e regolarmente mantenuta in un'unità del terzo piano, fortunatamente vuota, nel quale i vigili del fuoco hanno rilevato la maggior concentrazione di monossido di carbonio, 460 parti per milione, altamente letale. La procura di Trieste ha disposto il sequestro sia dell'appartamento al terzo piano, sia di quello nel quale ha trovato la morte il 60enne austriaco. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina per parlare dell'ultimo giorno dell'anno, che è anche il giorno delle feste di piazza, feste che saranno regolate da una serie di restrizioni in quelle che il Ministero dell'Interno, in una direttiva appena emanata, definisce zone rosse. Si punta a tutelare la sicurezza dei cittadini e scoraggiare la presenza della criminalità diffusa. Con la direttiva inviata già il 17 dicembre ai prefetti di tutta Italia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolinea l'importanza di individuare nelle città con apposite ordinanze delle zone rosse dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e poterne quindi disporre l'allontanamento. Aree urbane ritenute sensibili ad elevata concentrazione di persone, come anche le piazze dei festeggiamenti di Capodanno, una stretta con cui si punta a garantire la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Una direttiva che, da quanto emerge, i prefetti della regione stanno ancora valutando e si riservano di approfondire nei prossimi comitati per l'ordine e la sicurezza convocati per dopo le feste. A Trieste comunque le zone rosse, fanno sapere prefetto e questore, sono già attive da anni in diverse aree urbane come le piazze Libertà e Goldoni e lungo le rive. Previste da un regolamento di polizia urbana, quest'anno, rileva ancora il questore Ostuni, hanno già portato all'allontanamento di 71 soggetti contro i 51 dello scorso anno. Da vedere se il prefetto, sulla scorta della nuova direttiva del Viminale, riterrà che ci siano i presupposti per prevederne in futuro delle altre. Intanto, in vista dei festeggiamenti di questa sera, è stato disposto un imponente servizio interforze di sorveglianza e sicurezza in Piazza Unità. A Udine al momento nessuna zona rossa, neanche per il Capodanno, ma la prefettura ha già da tempo disposto servizi specifici nelle aree urbane più a rischio, come la stazione e l'autostazione. E stasera, sorvegliata speciale, sarà Piazza Primo Maggio, dove si attendono 2-3.000 persone, con il presidio rafforzato delle forze dell'ordine e di addetti alla sicurezza privati, barriere dissuasive, zone di filtraggio e di evacuazione, stesse misure a Lignano e Codroipo. Anche a Pordenone la situazione non impone al momento l'individuazione di zone rosse, comunica la prefettura, ma l'attenzione resta alta in occasione della festa di Capodanno in piazza 20 settembre, dove è previsto il dispiegamento di 50 uomini delle forze dell'ordine, sorveglianza particolare anche nell'area della stazione. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Barchi sorvegliati, niente bottiglie di vetro e lattine, niente fuochi d'artificio e petardi, queste le restrizioni per le feste nelle piazze, per il resto molta musica e divertimento negli appuntamenti organizzati dai comuni ed ecco come si svolgeranno nei capoluoghi. Costerà poco meno di 200.000 euro al comune di Trieste l'organizzazione della festa di San Silvestro in Piazza Unità, la cui parte musicale sarà affidata a 3 DJ. Il via alle 22.30 e a un certo punto si passerà dalla disco al valzer di Strauss, mentre alle soglie della mezzanotte il conto alla rovescia introdurrà i brindisi augurali al lancio dei fuochi d'artificio, musica e balli fino all'1:30 di notte. La piazza sarà accessibile da 4 varchi, cioè Via dell'Orologio, Passo Fonda Savio, Palazzo della Regione e Prefettura. Sarà vietato introdurre lattine e contenitori di vetro, oltre che oggetti metallici e pericolosi. Quanto al traffico, sulle rive la circolazione sarà interrotta fra le 8 di sera fino al mattino successivo. A Udine la festa si svolgerà in piazza Primo Maggio con musica dalle 21 e un doppio spettacolo a mezzanotte con i fuochi d'artificio dal castello, fuochi cosiddetti gentili perché con gittata e decibel inferiori al consueto. Tanta musica dai ritmi latinoamericani al reggaeton, dal Latin Urban alle hit del momento. Sanzioni tra i 100 e i 600 euro per chi porterà in piazza contenitori in vetro, ceramica o metallo. A Pordenone sarà la musica da discoteca anni 70 e 80 la protagonista della serata in programma in piazza 20 settembre dalle 20.30 con il concerto dei Boney M. Experience che riproporranno successi e coreografie iconiche. Gorizia punta sulle canzoni anni 90 per attirare i festaioli in piazza Vittoria dalle 22.30 fino alle 2.30 e ci sarà anche uno spettacolo di droni che a mezzanotte tracceranno grafiche e immagini nel cielo sopra il castello. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Prenotazione all'ultimo momento, niente grandi tavolate, la ricerca di menù alla carta che però non sono facilmente gestibili dai ristoratori in serate come quella di San Silvestro. Ultimi preparativi anche da noi per il cenone di Capodanno e sentiamo allora come sta andando in una delle città più frequentate anche in questi giorni dai turisti, Udine, dove abbiamo sentito Angela Apuzzo, ristoratrice. Capodanno verso il tutto esaurito? Sì, assolutamente sì, abbiamo tutto esaurito già da una decina di giorni, e tantissima richiesta nonostante il periodo, tanta gente che ha voglia finalmente di festeggiare. Menù degustazione o menù alla carta? Ma io quest'anno ho scelto per menù alla carta perché i nostri clienti sono quelli di tutto l'anno, è giusto che abbiano libertà di scelta, di non avere particolari rincali solo per la giornata, e sinceramente ho cercato di venire incontro perché è vero che escono, è vero che condividono con convivialità e tutto, però comunque stanno molto attenti a quello che spendono, per cui è giusto andare incontro in un momento un po' difficile, diciamo. I prezzi sono aumentati rispetto a un anno fa? Ma io ancora no, forse il prossimo anno, sinceramente abbiamo avuto tanti rincali, cerchiamo di stare attenti un po' sulle porzioni, su tutto, ma mantenendo sempre gli stessi prezzi. Io penso che bisogna comprendere e andare incontro ai clienti, sennò diventa difficile veramente. C'è disponibilità a spendere, si fa fatica? Ah, io vedo che c'è, sì, è vero che il periodo è difficile, però la gente ha voglia, insomma, adesso di divertirsi, di uscire. E poi scegliendo ambienti alternativi forse non è detto che bisogna spendere tanto, insomma si ci può divertire anche con meno, ecco. Grandi tavolate o piccoli gruppi? Ma noi piccoli gruppi, però è anche vero che il ristorante è quello che offre, insomma, non da grandi gruppi. Penso però che il Capodanno sia più per grandi gruppi. Io, diciamo, abbiamo una clientela un po' over, per cui sì, noi piccoli gruppi. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo allora com'è il tempo in questa ultima giornata dell'anno. Abbiamo cielo ovunque sereno sul Friuli Venezia Giulia. Questa è la temperatura delle 11. A Trieste 10 gradi e 5 decimi, a Udine 9, a Gorizia 8 gradi, a Pordenone 6. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 5 gradi, a Tarvisio 1, a Sappada meno 1, sul Piancavallo 6, a Forni di Sopra 8 gradi e in quota abbiamo ancora sull'Ussari 4 gradi, sullo Zoncolan 3, sulla costa a Grado e a Lignano 5. Previsioni, oggi pomeriggio e in serata avremo cielo in prevalenza sereno con la possibilità di nebbie su pianura e costa, dalla sera e nella notte probabili anche brinate in pianura, sui monti ancora inversione termica marcata. Domani, secondo l'ARPA, su pianura e costa avremo tempo umido con cielo in prevalenza nuvoloso e probabili nebbie, sui monti cielo sereno. Ma quali indicazioni arrivano dai dati meteo di un intero anno? L'abbiamo chiesto ad Arturo Puccillo, responsabile dei previsori dell'ARPA. Se andiamo a rivedere come è andato dal punto di vista meteorologico questo 2024, abbiamo alcuni elementi interessanti che è opportuno considerare. In primo luogo, la temperatura del mare per il 2024 con i suoi 18,4 gradi rappresenta il record assoluto negli ultimi 30 anni, probabilmente anche nei decenni precedenti. Ricordiamo anche che negli ultimi 7 anni abbiamo avuto costantemente medie annuali superiori ai 17 gradi, cosa che era accaduta molto raramente, se non una volta sola, nei decenni precedenti, in particolare nel 2014. L'andamento mese per mese della temperatura del mare rispetto alla sua norma, e notiamo una prevalenza di periodi con temperature sopra la media, salvo qualche piccolo periodo molto breve tra la tarda primavera e la prima parte dell'autunno, in cui questa temperatura è rimasta un po' sotto la media. Anche questo ci rappresenta questo valore record. Passiamo alla temperatura dell'aria, che invece andiamo a vedere nel suo andamento secolare. Notiamo come il 2024 rappresenti uno dei tre maggiori valori più alti registrati, prendiamo come riferimento la pianura, ma dipenderà anche un po' dalle diverse zone della regione, negli ultimi 10 anni, in particolare 2022 e anche 2014. Ecco, queste temperature sono decisamente più alte rispetto a qualsiasi altro valore registrato nei decenni precedenti. Se andiamo a vedere l'andamento mese per mese come anomalia di temperatura, notiamo come naturalmente un anno caldo rappresenterà un andamento mensile sempre più caldo della norma, quasi sempre, salvo maggio e novembre, che sono stati leggermente al di sotto. Per il resto e anomalie molto marcate, specialmente febbraio e poi nel cuore dell'estate. Parliamo adesso di pioggia. La pioggia ci mostra un andamento quest'anno più umido, più piovoso rispetto agli anni scorsi, in particolare al 2022, con valori tra il 30 e il 50% sopra la norma, specialmente sulla fascia prealpina e sulla zona occidentale della regione, valori intorno alla norma invece con delle oscillazioni più o meno marcate per quanto riguarda le altre zone della regione. I giorni di pioggia, sempre prendendo come riferimento la pianura, notiamo come sia stato un anno più piovoso, distribuito in diversi mesi, soprattutto all'inizio dell'anno, e poi alternanza a metà anno e a fine anno di periodi più umidi e più secchi. In particolare notiamo il periodo secco di novembre-dicembre, mesi autunnali normalmente molto piovosi, in questo anno invece sono stati piuttosto secchi. Ecco che un altro dato interessante e curioso: la radiazione solare, cioè quanto sole abbiamo avuto nel corso del mese di novembre di quest'anno e anche nei 30 anni precedenti, il 2024 è uno degli anni in cui il mese di novembre è stato più soleggiato in assoluto negli ultimi 30 anni, con pochi precedenti appunto e molto isolati in passato. Direi che è tutto, un buon anno nuovo a tutti quanti. A Barci sta per partire l'operazione di sghiaiamento del Rio Arcola, che dovrebbe scongiurare l'allagamento della strada regionale 251 in coincidenza con le precipitazioni più copiose. Oggi la consegna del cantiere, mentre il Comitato Valcellina continua a sollecitare un intervento anche per il lago. Una promessa mantenuta 45 giorni dopo l'incontro con i rappresentanti del territorio dell'assessore regionale Amirante, sono state consegnate le opere di sghiaiamento a Barcis per rendere sicura la strada regionale 251. Il tratto è quello di Arcola, spesso invaso dall'acqua. Interventi necessari per l'accessibilità ai servizi essenziali e per lo sviluppo economico delle comunità della Valcellina, che attendono da anni una risoluzione dei problemi legati sia alla viabilità sia allo sghiaiamento del lago di Barcis. Sentiamo l'assessore regionale Cristina Mirante. Oggi abbiamo formalmente consegnato alle due imprese l'incarico, ma abbiamo anche dato l'incarico professionale a un tecnico, un professionista, per studiare le alternative alla viabilità, utili non solo per il grande sghiaiamento, insomma, che la Direzione Ambiente sta studiando, ma anche per le imprese locali che operano su questo territorio e che hanno la necessità di spostare la merce e i prodotti attraverso mezzi pesanti. Le opere di sghiaiamento avranno una durata di 4 mesi, in un momento in cui il lago è asciutto, e permette quindi l'intervento. Stanziati 1,5 milioni di euro da destinare a due interventi: la rimozione delle ghiaie accumulate in due punti della strada e l'avvio della progettazione di una viabilità alternativa alla regionale 251 in destra lago, in particolare quella dei mezzi pesanti. 50.000 metri cubi di ghiaia in due lotti che verranno portati non più a monte ma a valle, a Monte Reale, alla diga di Ravedis. Barcis, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora i temi dell'ambiente, sostenibilità, viabilità e approvvigionamento delle matrici vegetali, i nodi alla base della conferenza dei servizi per l'allestimento di un impianto di biometano a Budoi, al confine con Trapolcenigo e Fontanafredda. Nulla di fatto alla conferenza dei servizi che si è riunita ieri per prendere in esame il progetto per la costruzione di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili da realizzare nel comune di Budoia. Tutte le osservazioni raccolte dalla Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente della Regione sono state analizzate nei dettagli, ma per la conclusione è stata indetta una nuova riunione l'8 di gennaio. Ieri c'è stato un confronto fiume tra i tecnici regionali e il Comune di Budoia, dove il sindaco Ivo Angelin ha espresso il dissenso politico dell'amministrazione all'insediamento dell'impianto a biometano, con tanto di delibera del Consiglio Comunale già approvata. Le criticità riguardano la sostenibilità, la viabilità e l'approvvigionamento delle matrici vegetali. Anche da parte dei comuni limitrofi di Polcenigo e Fontanafredda sono state avanzate forti perplessità sul nuovo insediamento. Il sindaco di Polcenigo, Antonio De Fiol. Noi non siamo contrari a questo tipo di impianto, ma siamo contrari alla sua ubicazione, che è a ridosso dei centri abitati, e i riflessi negativi di questa tipologia di impianto, che è un impianto di grandi dimensioni, parliamo di 80.000 metri quadri, sono l'eventuale impatto sulle falde, dove ci sono 3 pozzi di 3 comuni, Fontanafredda, Bruniera e anche Prata. Per Fontanafredda potrebbe pesare soprattutto l'aumento del traffico dei mezzi pesanti. Il sindaco di Fontanafredda, Michele Pegolo. Io confido totalmente negli uffici della Regione e spero che ci siano le prescrizioni per quanto riguarda i fattori d'origine, le eventuali e quindi problematiche riferite all'inquinamento e soprattutto, ripeto, soprattutto al problema viario che la Regione sa già. L'indirizzo politico è sempre quello dell'ascolto e del confronto con il territorio, fa sapere l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Nel caso specifico la questione è prettamente tecnico-amministrativa. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Solidarietà è stata espressa dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca al dottor Enzo Mazzaro, primario di cardiochirurgia all'ospedale triestino di Cattinara, coinvolto suo malgrado nel controverso caso di un paziente affetto da una grave cardiopatia valvolare che per sua scelta avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico e le vaccinazioni raccomandate per la sua specifica condizione clinica. Gli insulti e le minacce subite dal collega Mazzaro e indirizzate purtroppo anche alla sua famiglia, ha scritto Michele Pilato, presidente della Società di Chirurgia Cardiaca, sono assolutamente gravi e inaccettabili. Il dottor Mazzaro, ha proseguito Pilato, è un professionista stimato all'interno della comunità cardiochirurgica nazionale, apprezzato per integrità morale e onestà intellettuale. Va anche rimarcato il fatto che non abbia mai avuto in cura diretta il paziente in questione, né lo abbia mai conosciuto. L'auspicio è che un loro sereno e diretto confronto possa chiarire qualsiasi frainteso e ristabilire un corretto rapporto di fiducia reciproca medico-paziente, ha concluso Pilato. Siamo alla pagina degli spettacoli, la magia del balletto e le atmosfere natalizie, c'è tutto nello Schiaccianoci che ieri sera è andato in scena a Rossetti di Trieste. Tecnica sopraffina ma anche tecnologia per effetti visuali in linea con i tempi. Scroscio di applausi per lo Schiaccianoci, il classico di Tchaikovsky interpretato dall'Ukrainian Classical Ballet di Ivan Zuravlev al debutto a Rossetti di Trieste per l'ormai tradizionale spettacolo di balletto sotto le feste. Il capolavoro del compositore russo scritto nel 1892 è andato in scena in un'edizione completamente rivisitata da un ensemble di fama mondiale con solisti ospiti provenienti dai principali teatri europei, a colpire non solo la precisione tecnica e la forza emotiva, ma anche gli effetti fiabeschi e magnetizzanti. Così la storia di Clara e del suo piccolo Schiaccianoci che diventa principe non stanca mai, fiato sospeso per i valzer dei fiori e dei fiocchi di neve, per le danze dei diversi paesi e i passi a due. Lo spettacolo è arrivato a Trieste in un tour a 200 appuntamenti che ha coinvolto in poco più di un anno 50.000 spettatori. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E chiudiamo in ritmo di gospel, ne abbiamo parlato con Rudy Fantin, che a questo genere ha dedicato due diversi e ampi progetti. Nasce dalla tratta africana in Nord America, prende elementi della cultura europea e dà origine a una sensibilità inedita, fatta di devozione profonda con radici cristiane. È il gospel, parola che in inglese significa Vangelo, e genere che mescola canto, spettacolo e professioni di fede. In Friuli Venezia Giulia il maggior interprete è Rudy Fantin, pianista, compositore e docente. Al gospel ha dedicato due progetti distinti nel tempo e nelle intenzioni. Avendo fondato il Friuli Venezia Giulia Gospel Choir più di 20 anni fa, ad un certo punto è arrivato, diciamo, alla maturazione del proprio progetto e l'ho chiuso per aprire invece il progetto The New Voices Project, che ha proseguito, diciamo, la strada del Friuli Venezia Giulia Gospel Choir. Fantini, che nasce come musicista classico, rimane folgorato dal jazz a 18 anni. Nel tempo ha lavorato con personaggi come Stevie Wonder, Noah, Myron Butler ed è direttore musicale della cantante americana Cheryl Porter. Incredibile cantante di Chicago, con cui appunto collaboro tuttora e solo l'anno scorso mi ha portato 5-6 volte negli Stati Uniti. Per Fantine il gospel va affrontato con rispetto, anche perché in Italia le esecuzioni vengono fatte fuori dal loro contesto originario. In America il lato spettacolare dei rituali gospel, ma anche quello del business, non sono mai disgiunti dal loro significato spirituale e religioso. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Andrea Fontanotte e Samuel Montalto, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Sono le 12.56, grazie per la vostra attenzione, prossima edizione di questo GR regionale alle 15. A tutti buon pomeriggio e buona fine d'anno. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.